America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Firenze, Mario Platero. It was breathtaking. It was very emotional. It made me very proud. Not only proud to be an African, but proud to be associated with the Palazzo Strozzi Foundation. Ecco, avete sentito la signora Dlamini Zuma, dovrei dire dottoressa Dlamini Zuma, e il presidente dell'Unione Africana. Mi trovavo a Firenze ieri per l'assegnazione del premio Donna Rinascimentale dell'anno, che è stato appunto assegnato proprio ieri sera alla Dlamini Zuma. Io mi occupo di questa fondazione negli Stati Uniti, è una missione filantropica, spesso parliamo di filantropia, credo molto nella filantropia, dovremmo farne molto di più anche qua in Italia. Ecco, è stato per me ovviamente un onore essere associato a questa manifestazione, ma soprattutto a questa signora, una donna straordinaria, vi parlerò più a lungo di lei fra poco, ma in questo caso dice di essere stata molto orgogliosa per aver ricevuto questo premio di Donna Rinascimentale. Mentale, ha avuto una certa emozione e si augura che il legame fra Palazzo Strozzi Foundation, che ha dato il premio, e l'Africa e il Rinascimento e la città di Firenze possano rimanere. Dunque, chissà, speriamo che si sia creata davvero un'alchimia. Ma ieri sera c'era anche il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, sentiamolo. Se l'Africa riesce a scommettere sul futuro, probabilmente è l'intero paese, è l'intero pianeta che riesce ad avere una diversa concezione dello sviluppo. In questo senso, il ruolo che la presidente Dlamini Zuma oggi ha è un ruolo strategico, un ruolo fondamentale, e io credo che abbia fatto molto molto bene la Fondazione Palazzo Strozzi a immaginare un ruolo per premiare, o immaginare un momento di premiazione per questa donna che simboleggia nella nostra città i valori del Rinascimento. In che modo può la Dlamini Zuma esprimere i valori del Rinascimento? Beh, c'è stata una ricerca, c'è una storia. Intanto raccontiamo chi è questa signora. Ha combattuto al fianco di Nelson Mandela quando era giovane, da ragazza, contro l'apartheid del movimento underground, è dovuta andare in esilio in Inghilterra, ma ha studiato botanica, ha studiato zoologia, ha una laurea in scienza. Dopodiché, durante il periodo a Bristol, si è laureata in medicina e successivamente si è specializzata in pediatria infantile, è andata in uno dei più importanti centri per la ricerca di malattie tropicali infantili in Inghilterra, dove è stata ricercatrice per alcuni anni. Poi si è dedicata alla filantropia, ha lavorato per molti anni in una non profit inglese occupandosi di bambini poveri e malati in zone remote dell'Africa, lavorando in associazione con un ospedale. Quando Mandela diventa presidente, lei viene nominata ministro della sanità, stiamo parlando del 92, il primo governo Mandela. Resta ministro per la sanità, dopodiché nel governo Mbeki fa il ministro degli esteri per 10 anni e dopodiché il ministro degli interni fino a un paio di mesi fa, quando viene nominata presidente dell'Unione Africana. E dunque lei stessa rappresenta quel messaggio centrale del Rinascimento, che è un messaggio di umanesimo, di tolleranza, di libertà, di creare delle piattaforme per la democrazia. E dunque il premio è stato assegnato a lei per quello che ha fatto, ma è stato assegnato a lei anche a nome dell'Africa, perché l'Africa, ce l'ha detto Time Magazine non più tardi di 2 settimane fa in copertina, is on the rise, sta salendo. Noi preferiamo tradurre questo rising britannico in rinascimento. I think it's very important for us to balance the peace and security issues. Ecco, la Zuma la sentite, perché poi abbiamo fatto una lunga chiacchierata con la signora Zuma di cose più concrete. Il premio è bellissimo, esprime dei grandi valori. Tra l'altro l'anno prossimo ci sarà il 50° anniversario dell'Unione Africana, e la Zuma ci ha detto proprio che uno dei punti centrali di celebrazione sarà proprio sul Rinascimento africano, quindi direi che le cose coincidevano bene. E dunque un problema qual è? È che sappiamo che il continente africano è devastato da lotte intestine, attentati, uccisioni, genocidi. Questo è un po' quello che molti di noi hanno come immagini di alcuni alcuni paesi, da alcune situazioni africane. Ebbene, lei ha spiegato che intanto una gran quantità degli stati africani sono molto stabili. È vero che ci sono delle situazioni difficili, però sottolinea che se una delle sue missioni è quella di mantenere la pace e la stabilità e quindi di evitare i genocidi, tra l'altro l'Unione Africana da qualche anno è dotata di un esercito proprio per intervenire nel caso ci fossero delle minacce di genocidio, di massacri. Ecco, l'altro aspetto cruciale, importante, è quello dello sviluppo. Questo ci riguarda molto direttamente perché l'Italia è proiettata sull'Africa, siamo in una posizione centrale, c'è una grande concorrenza per poter partecipare allo sviluppo e alla crescita dell'Africa, dalla Cina naturalmente, ma anche da parte di molti paesi europei, la Francia, la Germania, ovviamente Stati Uniti da una parte, Brasile dall'altra. Tutti stanno cercando di sviluppare dei rapporti privilegiati con lo sviluppo africano. We are a billion and more strong. More than 60% of the African population is young, and of course more than 50 is female. 1 miliardo di persone ci sono in Africa, dice la Zuma. Noi abbiamo il nostro grande asset, la nostra grande forza e nella popolazione. Il 60% di questo miliardo di persone sono giovani. Problema l'educazione. Uno dei punti centrali, di nuovo, della sua missione sarà quello di migliorare l'educazione dei giovani. E per due ragioni. Primo, perché se molti continueranno ad immigrare, e sappiamo quanti ne sono venuti in Europa, ci sarà un'immigrazione di maggiore qualità rispetto a quella che abbiamo conosciuto finora. Ma secondo, perché per lo sviluppo occorre avere sempre più delle persone con un addestramento tecnico, ma con un'educazione di fondo piuttosto sviluppata. Sviluppo in che direzione? Naturalmente dal punto di vista industriale, ma anche il 60% della terra arabile mondiale è in Africa, e dunque la Zuma punta molto sull'agricoltura, un'agricoltura industriale dove di nuovo potremmo avere un ruolo importante. The parliament with the greatest number of women is in Africa. Ultimo messaggio della signora Zuma: le donne devono svolgere un ruolo centrale, e devo dire che lei le rappresenta benissimo, vi ripeto, l'ho conosciuta a fondo ed è una donna davvero straordinaria, e ci porta l'esempio del Ruanda. Il Ruanda, dopo il genocidio, ha sviluppato un equilibrio parlamentare dove c'è il maggior numero di donne rappresentanti in Parlamento in Africa. Il suo incoraggiamento che le donne partecipino alla vita politica, debbono essere coinvolte, e su una serie di questioni, questo per esempio che riguarda ovviamente anche il nostro paese, ma anche sulla questione della corruzione, che a un certo punto provocatoriamente qualcuno le aveva chiesto, dice: beh, certo c'è corruzione in Africa, ma la corruzione c'è dappertutto. Credo che da questa signora abbiamo imparato molte lezioni. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee che potremmo sviluppare oggi. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, Africa, siamo in tema africano. Mi ricordo un grandissimo album di Paul Simon che a un certo punto decise di fare una sua esperienza africana. Ne nacque, un disco straordinario, Graceland. Utilizzò i musicisti africani e riuscì a portare il sound, la musica africana, che insomma è fantastica, dentro questo suo album. E vi propongo Diamonds on the Soles of Her Shoes, Graceland, Paul Simon. Say she's crazy, she got diamonds on the soles of her shoes. Da Firenze è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!